is a word I would never have used before. I never would have used with any of the four presidents I've worked for. He lies. He lies about things. And he gets away with it because people will not hold him accountable. Eccoci qua, buongiorno Giulia Crivelli, buon inizio di settimana. Come abbiamo introdotto la puntata di oggi, Giulia? È un signore di 83 anni, si chiama Colin Powell e sicuramente qualcuno molti si lo ricorderanno, è un generale a 4 stelle, primo generale afroamericano a ricoprire ruoli di altissimo profilo, da National Security Advisor a comandante delle forze armate con Bush, un autorevolissimo esponente comunque della parte del Partito Repubblicano, se vogliamo, anche se non è un parlamentare, e è uno dei molti che, come abbiamo sentito, si è scagliato contro le ultime uscite di Trump e tra l'altro ha riassunto anche quello che pensa del presidente da molto tempo. Dice: credo che di usare una parola che non avrei mai pensato di usare con i quattro presidenti sotto i quali ho servito, cioè Donald Trump è un liar, è un bugiardo, e continua a dire bugie perché nessuno gli chiede conto di queste bugie. Ha poi fatto anche un duro atto d'accusa al Congresso, in particolare al Senato, che come sappiamo è controllato dal Partito Repubblicano, perché appunto nel sistema americano di balance of powers nessuno sembra in grado di non di fermare Trump, però almeno di inchiodarlo, di fare del fact checking serio alle cose che dice. E quindi insomma è una, naturalmente questa presa di posizione trova molto spazio sui giornali, e i titoli però sono tutti per le manifestazioni di ieri che hanno fatto seguito a quelle di sabato negli Stati Uniti, e anche per quanto riguarda la capitale, che la Guardia Nazionale che Donald Trump aveva, alla quale aveva chiesto di raggiungere la capitale per proteggere sostanzialmente la Casa Bianca, lascerà la capitale. Quindi un primo segnale di distensione, anche perché bisogna dire che le manifestazioni in particolare di ieri sono state abbastanza pacifiche, senza quei disordini che avevamo visto nei giorni precedenti. Un piccolo messaggio di servizio: gli ascoltatori ci segnalano che non si sente la diretta via streaming sul sito di Radio 24, credo forse neanche la diretta su Facebook, accade spesso ultimamente, non so qual è il motivo, cercheremo di intervenire, ci scusiamo. Giulia, ancora, oggi tra l'altro c'è la camera ardente a Houston per George Floyd. Esatto, e questo sarà un po', se vogliamo, ormai George Floyd è morto non domenica ieri ma la domenica precedente, quindi sono passati ormai quasi 10 giorni, e chiuderà un po' questo cerchio di ricordi della figura di George Floyd. Ma in realtà, come hai detto anche tu nelle breaking news prima, questo sta avendo tantissime conseguenze. George Floyd è stato ucciso a Minneapolis e il Dipartimento di Polizia, che se ci pensate per noi è una cosa inconcepibile, no? Smantellare, sì, un dipartimento di polizia, ma questo fa parte della struttura anche organizzativa federale degli Stati Uniti, quindi c'è chi ha l'autorità di scioglierlo, e così capiterà, per cercare di riorganizzarlo. Tra l'altro, segnala Financial Times, per dire che proporzioni sta prendendo questa vicenda, che se si guarda alle donazioni che le big corporations, cioè le aziende quotate, hanno fatto alle organizzazioni che si occupano di difesa dei diritti civili, solo nell'ultima settimana sono stati 450 milioni di dollari. Quindi questo è un primo segnale che insomma è la società intera americana che cerca di prendere questa occasione per introdurre veramente quel cambiamento che hanno auspicato in tantissimi, da Obama adesso a Colin Powell, ma tantissimi leader politici e non solo. Senti Giulia, vedo dalle tue segnalazioni che oggi in Francia riaprono le scuole elementari. Sì, in Francia continua il dibattito su questo tema. Il titolo delle Figaro è la scuola e l'università, ma quali sono le soluzioni per settembre? Perché è vero che si è privilegiato, ne abbiamo parlato spesso anche con te, i più piccoli, quindi gli asili e poi le scuole primarie, però naturalmente si pone anche il tema di settembre. Si fa il confronto con il vicino Belgio, per anche vicinanza anche solo linguistica, dove le scuole hanno riaperto senza visiere, quelle che abbiamo visto in Giappone, senza divisori, usando gli spazi, visto anche sfruttando la stagione, usando gli spazi all'aperto, facendo fare magari appunto visite, non so, ai vicini parchi, insomma, si è cercato di no, mi viene da ridere perché penso alla bella stagione che notoriamente c'è in Belgio, e se riescono a farlo lì non si capisce perché qua da noi stiamo ancora parlando di appunto di plexiglass e visiere. Questo io lo trovo incredibile, però. Tra l'altro le Figaro dice, da una parte, se vogliamo prendere spunto da quello che succede oggi, la fotografia di oggi, è chiaro che anche l'università deve strutturarsi in un modo diverso, lezioni per meno studenti, distanziamento, usare di più la didattica a distanza che è stata sperimentata in questi mesi, e però si chiede anche, con un bel punto interrogativo, ma se invece i dati dovessero continuare a migliorare è proprio necessario immaginare un ambiente completamente diverso. E insomma, vedremo effettivamente da qui a luglio-agosto che cosa succederà. Abbiamo anche una voce dalla Francia che vogliamo sentire, sì. Sì. Sì, di Mélenchon, che in realtà, perché abbiamo parlato delle manifestazioni come sappiamo, le manifestazioni si sono poi estese a tantissimi paesi, Italia compresa. Quindi sentiamo Mélenchon. C'est un signe de très bonne santé de la jeunesse et du peuple français. Nous sommes dans une situation d'une gravité singulière. Che dice? Dice, lui è un politico di sinistra, però dice, abbiamo visto insomma quello che è successo in Francia e naturalmente prima negli Stati Uniti, e lo spunto di questa chiacchierata che ha fatto, tra l'altro è intervenuto in tante trasmissioni, è: dobbiamo guardare anche noi alle violenze che ci sono state della polizia, in particolare sui francesi di origine africana. Perché tra l'altro ci sono due o tre casi che sono stati invocati dalle piazze, cioè sì. Purtroppo io non so, ricordo il film L'Odio di qualche anno fa, che raccontava proprio di come a volte c'è molta violenza negli arresti, soprattutto nelle banlieue. E quindi insomma Mélenchon dice, stiamo attenti perché queste proteste possono diventare, insomma dobbiamo prevenire un po' che diventi qualche cosa di meno controllabile. Ecco. Grazie Giulia, chiudiamo qua per oggi, ci risentiamo naturalmente domani. Un ringraziamento a Filippo Origi, Claudia Schiattone e Alessandro Schirano in redazione. Ciao.